My father name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Gli leggere quei giornalacci che poi disimpari quelle poche cose di musica che sai. Ah, poche cose, cioè, Andrea, guarda. Via, va, via, stiamo zitti. Ti volevo cogliere sul vivo, cioè, capito? Stiamo zitti perché guarda. Ma io compro le riviste di musica per vedere le bischerate c'è scritto sopra. Ecco, poi tra tutte le cose, le tabelline con i voti, quelle sono le peggio. Quindi proprio... Sì, sì, no, queste sono proprio quelle cose che ti fanno. Non diciamo, non diciamo la parola che cosa ti fanno. Non diciamo neanche di che rivista stiamo parlando. Assolutamente. Perché non vale la pena neanche farci la pubblicità. No, dai, perché Dio buono. Ma scherziamo, scherziamo. Stefano Isidoro Bianchi è un caro amico. Io leggo solo una rivista, lo sai, questa qui ormai, cioè, leggo solo questa. Pensavo leggessi solo il Vernacoliere. Sì, vabbè, oltre il Vernacoliere ti sto dicendo di musica. Solo questa qui? Solo questa, sì. Ma sul set? Sì, sì. Le altre, cioè, non ce la faccio. Le altre, se devo comprare, se no a quel punto compro TV, Sorrisi e Canzoni. Ecco. Lanciate due frecciatine ed è solo iniziata la trasmissione. No, a parte gli scherzi, cioè, non mi interessa comprare quelle altre riviste. Anche se magari sono fatte bene, però, cioè, veramente. Il discorso delle riviste di musica in Italia potrebbe essere molto, molto lungo. Purtroppo sono andate sparendo. Cioè, io non mi vergogno a dirlo, da quando non c'è più Superfly, che per me era appunto la rivista. Quello proprio, dicevo, no? Cioè, era non neanche la rivista meglio, la rivista peggio. La rivista numero per me era proprio la rivista di musica, punto. Poi sono andate morendo anche tante altre riviste, sì, vabbè, che ci hanno provato, insomma, certo, no? Da Basement in giù. Sì, vabbè, ma... E ci sono rimaste alcune pagine di Blow Up. No. Già anche Basement non l'accosto a Superfly, cioè era una roba mainstream. Chiaro. Cioè, ma proprio voluta mainstream da loro, dagli editori. Ma ormai, da quando c'è Pitchfork, da quando c'è Facts, così, chi se ne frega. Ormai... Alla fine chi se ne frega, no? È che lo sai che anche Accelerator, cioè, continuo, cioè, ce l'ho tutti in PDF, ma non ce la faccio a leggere, mi ci finisco gli occhi a leggere le riviste in PDF. Ingrandisci, no? Sì, no, non me ce la faccio proprio... Me la più. Cioè, le riviste poi si leggono bene in un luogo, no? Che qua non si può dire. È chiaro. E quindi, lo sai come faccio io a dove volte ci manderanno tra poco i nostri ascoltatori? In studio scarico Accelerator, mi stampo le pagine in A3 che mi servono e poi vado. E poi vado in quella stanza. A fare le riunioni. È chiaro. Sì, in A3, perché se me le devo stampare a 4, mi ci finisco gli occhi. Casco in terra. Se volete dire la vostra sulle riviste di musica italiane e anche sui portali internazionali, che insomma così tra il serio e il faceto abbiamo citato, il nostro gruppo Ragnar Pfizer su Facebook forse fa il caso vostro. Anche perché noi ricordiamo sempre il blog ragnarpfizer.blogspot.com, ma raramente ricordiamo di far sapere ai nostri ascoltatori che c'è anche un gruppo al quale si può partecipare, sul quale si possono scrivere le cose un po' che vi pare. Se voi cercate Ragnar Pfizer su Facebook, che ahimè ormai è la seconda vita di un po' tutti. Di un po' tutti. Non per niente siamo ormai arrivati, si fa capo a Facebook, quasi 1 migliaio di fidelizzati da quelle parti, quindi niente male. Quindi se cercate potete cliccare su mi piace. Yes. Bene, il resto resta uguale, eh? Insomma, come nelle altre puntate. Sì, sì. 4 DJ set da 20 minuti l'uno. Le solite chiacchiere ai bar con Gino Paoli. Distintivi pochi, chiacchiere molte. Questa mi è venuta così, è gratis. Comincia Tommy. E se l'inizio elegante, voglio dire, racconta qualcosa del suo set, c'è da aspettarsi solo cose buone. È chiaro. Nella stanzetta, oltre a me e Duccio, ci sono anche già Biga e Bubu, che aspettano pazientemente il loro turno e forse la piadina che vado a prendere. Addirittura. Tommy, i 93 e 98 mangio la piadina da coniglio, lì, quella, esatto, con l'erba dentro. Devo... E poi la faccio quella col prosciutto bulgaro. Sì, va bene. Prosciutto bulgaro. Non hai visto la puntata di ieri sui prosciutti? No, dove? Capito, era un riferimento colto. No, io ieri proprio ero in un'altra dimensione. Una puntata nella quale hanno raccontato da dove arrivano davvero i prosciutti di Parma. Ah, ok. Robe losche. Addirittura. Vi lasciamo nelle mani di Tommy, buon ascolto. Yo! Yeah. Tornata la giornata è già iniziata senza che nessuno mi avvisasse. Sul mobile all'ingresso c'è la busta delle tasse. Il sudore si impasta quando bagno la mia faccia, faccio un caffè. Già da un po' passarono le tre, mi organizzo, un poco leggo, un poco imbocco muse, lo raggiungono e mi aiuto, il tempo paralizzo. Vedo la luce fuori ed è già scesa, esco ma dopo ho da fare, non c'è tempo per la spesa. Tempo di kebab. Giro la città in cerca di qualcosa che lei non può darmi. Mastico parole in un tentativo di ipnotizzarmi. Penso sul da farsi. E l'unica cosa sicura è che anche oggi passa e che domani sarà un oggi al quale adattarsi. La gente sorride, la gente beve. La gente sono io e la gente non mi vede, crede. Ho sete e conto le ultime monete. Mi fermerò all'angolo mentre penso che mi importa anche una sega. Tanto ho tempo. Tempo di un kebab. Down.

trap, no shield, no sword. The unbeaten path got my soul so sore. Allured by the lust, something money can't cure. The devil want me as is, but God, he want more. Eyes closed, eyes open, great another day. Here we go. Like a nigga woke up late in the Truman Show. Living life without a care. Mean poker face, but I'm forced to play solitaire till I get up out of here. Move like a wanted man with a bounty on his head. Work alone, sleep alone, eat alone. Daily bread counted till my fingers red. How you gon' judge a man? Walking in the shoes of a man with a broken leg. Flame on the trail headed for the powder keg. Last place in the race, I ain't never led. Like I ain't never bled. Time to get up out of bed. Serving in the army of one, it's on again. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been on my own, ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been on my own, ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. I'm in a chess match, I'm in a death trap. I'm trying to find out where the eggs in the nest at. I want blood when the sky turns jet black. No love in the world can correct that. I'm in a slow lane, I'm on my Cobain. I'm in a new spot, trying to run an old game. I got a new chick, put out my old flame. No peace, no sleep, no love for a young beast. You can put me in a cage, you can put me in a jungle where the lion get blazed. It ain't no hell like the hell I raised. I die in the bed I made, for I lay with a love I loathe. I'm a snake in the garden of bones. I'm a loner in a world of clones. I'm the piece that don't belong. See, I'm wrong where the reaper wrong. Till they put my name on the stone. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been on my own, ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been on my own, ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. The longest walk I'll probably ever be on. The road to perdition, guess I'm finna get my plea on. I pray these wings strong enough to carry me on. I promise every second felt as if it took an eon. Walking like the Lost Boys in Sierra Leone. The trail of tears, what they got me like a Cherokee on. Between the ears, something I require therapy on. For working to the bone like my name, Robert Guillaume. I go above and beyond the duty call, truly on. Even though they kinda blew me off like a booty call. Ask me if I'm just another moolie or a movie star. Forced to face the music like a graduate of Juilliard. Walk alone, talk alone, get my Charlie Parker on. Make my mark alone, shed light upon a dark alone. Get my spark alone, it's a mission I'm embarking on. A kamikaze in a danger zone, far from home. Chi sono i Roots, vecchio? Vecchio sono i Roots, vai col freestyle pure, alla vecchia su. Parto io ora? Alla vecchia, vai vai. Chi era il Giulio? Con quale Giulio ce l'aveva? Giulio Cesare? Forse. Nel frattempo sono venuti un po' di amici a trovarci qui nello studio di Via del Rosso Fiorentino 1B. È gran festa. Veramente uno, eh? È uno. Gran festa allo studio di Controradio. Oggi te li sei appuntati su un foglietto i nomi, guarda, le biografie degli artisti, no, per non fare le figure che hai fatto l'altra volta in diretta. Guarda te se mi tocca sentirvi da Tirana blaterare su ricorrenze che poi non ricordate, te e quell'altro lì. È colpa mia in realtà, dai. Mi addosso la colpa io, è stata un'idea mia. Marcia, un'idea marcia mia. Biga giustamente fa gestacci, dice ma che volete. Posso fare un salutino? Prego. Come ogni radio che si rispetti. Prego, prego. Ora se ne fa uno, poi dopo se ne fa un altro. Yes. Il primo saluto di stasera bisogna farlo all'Anna e lo Zach. Freschi freschi in Berlin. In Berlin. E Armando, attenzione, e Armando a Dublino. Vogliamo un omino di quelli giganteschi dello Zac in Potsdamerplatz, va bene? Nel giro di una settimana, non di più. Non di più, sì, sì, sì. Altri amici vanno. No, ora ci penso. Anche poi molto più lontano, nella terra degli orsi. Gran, abbiamo da dirti delle cose terribili sui prosciutti. Te le faremo sapere via mail. Altre cose interessanti da dire, zero. Che lo scratch è gentilmente offerto gratis da Biga. Vogliamo fare un saluto colombiano, giusto per non restare indietro? Vai, vai, io guarda, io lo sai, cioè. Lo sai come sono i familiari. Per quanto ci capisco di lingue, ma me ne tiro fuori subito. No, dobbiamo salutare un colombiano noi. Lo so, ma se lo vuoi fare spagnolo ti lascio il compito a te. Io sai che falo solo portoghese. Ah, scusa. Falo portoghese come pagherà portoghese Biga poi peraltro. Vabbè, ma Biga, guarda. Senza dire. Biga invece sta andando a scuola, fa allenamento. Basta, me ne vado. Andiamo via tutti e due e lasciamo tutti i nostri ascoltatori con Biga in console per i prossimi 20 minuti. Biga sull'1 e 2. Yo! You know I walk all alone. Always been on my own. Ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. Walk alone, I walk alone. You know I walk all alone. Always been on my own. Ever since the day I was born. Dos inimigos temos medo ou revolta. De quem nos ama temos todo o coração. Dos que se perdem temos pena ou remorso. De quem se encontra vemos a satisfação. Temos medo ou revolta. De quem nos ama temos todo o coração. Dos que se perdem temos pena ou remorso. Dos que se encontram vemos a satisfação. ho capito se i Carillon erano turchi o lusitani. Baresi. Baresi. Ah, attenzione, stai calmo. Siamo in un momento delicatissimo del campionato, cioè eccoci. I nervi a fior di pelle. Le solite beghe. Raccontaci sta selezione che hai fatto. Ah. Eh? O ti vuoi mantenere in riservo come hai fatto la settimana scorsa? L'hai fatto l'omaggio che dovevi oggi? Oggi l'ho fatto l'omaggio che dovevo. Okay. Ce l'ho fatta. A chi? Me la raccontate sta storia che alla fine non ci ho capito niente? Che non questo sabato, quello okay. precedente, deceduto, è passato ad altra vita, questo musicista brasiliano di Pernambuco che si chiama Lula Corcis, mm-hmm. che è uno dei fondatori, cioè, magari erroneamente viene indicato come il fondatore, però comunque... composto i primi dischi e le prime sperimentazioni di musica regionale nordestina, okay. del nord-est del Brasile, con il rock, rock and roll, il rock progressive anche, no? Vero progressive, poi dipende cosa si intende per progressive, però diciamo è rimasto sempre lo stile, è rimasto sempre sul folk, psichedelico, rock and roll, okay. mai troppo progressivo, mai okay. troppo veloce o troppo diciamo più hard rock, come si può intendere il rock progressivo, insomma. E suonava ancora? Faceva ancora dischi? Fatto l'ultimo, tra l'altro l'ultima esibizione, nonché fosse malato già da un po' di tempo, da credo un 5 anni più o meno, aveva questo tumore alla gola. Ok. Comunque continuava a suonare regolarmente e l'ultima esibizione l'aveva fatta giusto per l'ultimo carnevale, quindi si parla di 2-3 settimane, insomma di poche settimane, neanche un mese fa. Ok, alcuni dei pezzi quindi del suo set erano suoi? Tutti i pezzi sono suoi o sono, per esempio quest'ultimo è del Lula Corcis in collaborazione con Marconi Notaro, sul disco di Marconi Notaro, che era un poeta nordestino, e questo è, credo se non sbaglio, se non dico una fesseria, credo sia il primo disco che è uscito di Lula Corcis come musicista, ancora prima del suo primo disco solista. Ovviamente i dettagli sulla scaletta del set di Biga, ma anche sul set di Tommy, quello di Duccio e quello di Bubu, che chiuderà la trasmissione, su ragnampaisa.blogspot.com a partire da domani pomeriggio. Siamo ancora nella foresta pluviale brasiliana qui, mi sa. Sì. Duccio, noi siamo pronti. Quando vuoi andare, e con le mani in tasca ancora con l'altro. Vai a dare una botta dietro, una pigna, come si dice in gergo, una pigna. 20 minuti di set anche per Duccio, poi vi raccontiamo alcuni degli appuntamenti della settimana, facciamo un po' mente locale adesso dopo i birrini e le piadine, e a chiudere Bubu. Oh, no. Forever, but you don't know. watch out the Marriott. Zoning on owning co-ops, horn drop top, coops and yachts, guzzling straight shots of scotch. Formulating up plots to escape from Salem slot, cause it's scorching hot. Making it hard trying to figure who's out to trap me. But tacky, got all kinds of undercovers that's coming at me. Perhaps he won't be happy till they snatch me and place me where half a slack be sitting in cast tacky, but never me. See, my destiny's to be forever free. In ecstasy on a hill that awaits for me. So flush just to visualize it like a coke rush. Vivid enough to make living this a must. Plus, sugar hill, baby. Sugar hill, baby. Pull the sage down, let's count this money. Put the grass in the safe. Let's go, Jackson. The Washington's gonna wipe it. You know how we do. And no technique. Fatti chiari, Ciccio. Yeah. Fatti chiari, bada discordati tutti quei momenti neri, i pensieri seri, ora zero scleri, una boccia di vino, due o tre bicchieri e vedrà che casino, poi sarà bene che ti pigli a modo, ho il flow che mette in moto anche i bolli, non sbadigli, voglio ubriache anche moglie e figli, quando il funk arriva, non c'è alternativa in riva, era partita con la banda bandita, ora sta sarabanda, sfonda come tre dita in fija, senza fatica per sta bene, fatela prendere in calda, si salta finché viene l'alba. E poi al bar a fa colazione, al mare per insolazione. Se c'è un problema c'ho la soluzione, la consolazione, no la sola. Tutti ubriachi con la buzza di fora. Zero, pistola in aria, la mia area agraria. E anche se non ci cachi, ubriachi e buzza di fora. Ora c'è chi ci scansa ragione, dalla mia regione senza sola. Ubriachi e buzza di fora. A me mi basta poco, mangio, ma che m'arrangio. Evito l'abito sofisticato. A me mi cambia poco, sul sobrio ubriaco. Mi do lo sbrago sul beat, che t'ha di? Io sono naif. A me mi basta poco, mangio, ma che m'arrangio. Evito l'abito sofisticato. A me mi cambia poco, sul sobrio ubriaco. Mi do lo sbrago sul beat, che t'ha di? Io sono naif. A me mi serve il minimo, so semplice, accottimo. Un guanto lattice e mettelo. Un pubblico in impianta acustico rustico. A me su tutti i gusti col mi fra l'ottimo. Ma appoggio al peggio per darmi vantaggio. Lascio il machillaggio a chi ha la pace. Cazzeggio col piaggio. Io sono naif, mi fo scrupoli, ampulimi beats. Polifenoli, fenomeni, no technic skills. Tra belli busti alla struscia e trambusti. Tra il motion intellettuale e virtuali petusti. Tra spazi a gusti e chi si attesta un pulpito io. Se c'è una festa arrivo prima e poi ultimo. A me mi basta poco, mangio, ma che m'arrangio. Vito l'abito sofisticato. A me mi abbia poco, sul sobrio bisao. Holding down Bronx tradition, my composition, simply squash the competition. Step up and get beat into a submission, cause this musician with the street intuition. 735, fuel injected transmission, my opposition will have to recognize my steeds. Exotic trees, leave a trail of scuffed up knees, so please, you couldn't touch this cat with a stick. Quick to inflict tricks, blaze up in the flick, son, I'm sick, and you can put that on my mama. Exclamation point, quotation, comma. Lay up on the beaches when I'm down in the Bahamas. The skills go back to the days of Wonderama. So pass this comma, son, it's time to get this money so we can relax and recline where it's sunny. I went from standing on the corner selling cocaine to ripping shows live on stage with hoes yelling my name. To be precise, ripping mics is the light of my life. You fronting like you trifle, never pulled the heist of your life. The price of my ice is sky high. I'm a fly guy, that's every thug's dream. I really love dream, it's in my bloodstream. You mad cause I got more chicks than you, more bricks than you, more lines with extra clips than you. Where I live, it ain't a nice town. You can't walk around, ice down. Some clown probably getting stuck right now. Peace to D-I-T-C, showing A-G. Bad J-O-E, Diamond D, loafing. My life story strictly vintage, never blew my chance. Mom kicked me out the house when I was flipping, I'm the man. Put the boys on the street, make them walk this beat. Teach them how to eat and to seek for peace. Son, I stamped his name Liverpool cause I mean what I say. Bring the fake to reality and make them pay. Yo, these ghetto rhyme stories got them scared to death. I'm trying to get the fuck out, see what the world's about. Check it, 1986 is when I reached my peak. Take my brothers out of state and try to make some ends meet. First destination Texas and it's just like that. Making moves with my brothers and there's no turning back. We got 36 grams on the scale right now. Getting ready with my brothers, time to break this shit down. I'm not about killing my people, but you know how it goes. Work with me, not against me, and we'll make mad dope. With my co-defender that when I break down with rap. Hold me back and give me love, and now I'm giving it back. A unique sound from the street, and it's just so sweet. My living proof life story, let me break it in peace. Yo, I rock on the block with the real hip-hop. Yeah. As you start the clock, and chop. Pussy, bring you take you out too, kid. A rainy day laid up thinking, sitting getting bent, watching old 70 flicks. Mind's on a slouch back in the couch, heard the phone ring. It was a shorty from uptown I met back day. Lotano here from, no doubt, Lotano see. I heard you had a seat, the baby girl, and now she's street. What's up with that cat? You know who, your baby pops. Slung rocks up top, then heard he got knocked. Nato il primo aprile, porto la scienza dentro al mio street name perché voglio capire. Passo la mano, voglio uscire, cara coscienza. Questa è un'altra delle mie missive, un'altra pagina sulla mia Moleskine, un'altra prova con cui spero di riuscire a fare terapia da solo. Se non curo la mia malattia, non avrò mai empatia con loro. La via della purezza in teoria si trova usando il cloro. Con l'acqua stantia, ma in questo caso cambieremo il modo. È che con me non mi ritrovo, ho il limite evidente di dipendere da quello che chiamate rap game, che per me non è un gioco. E soffro con la musica a tal punto che si accumulo e esplodo. Adesso scrivo proiettili di stress, ma in passato mi hanno preso come Curtis Jackson. Le pare con cui cresco sono sempre le stesse, sul battere e levare del tempo. La scrittura chiede il conto, il flow dalla struttura. E non è sempre la cultura fare un uomo più profondo nel mondo che ti scuoia. E pulita la lama, posa il coltello nella sua feritoia. Finalmente per voi, signore e signori. Oh, Cactini al microfono. E sui piatti alle macchine, lo sai chi c'è? Rock me. Questo è il momento perfetto per il risveglio, per prendere ciò che è già stato fatto e farlo meglio. Noi siamo come padre e madre, insegniamo. Finalmente per voi, signore e signori. Oh, Cactini al microfono. E sui piatti alle macchine, lo sai chi c'è? Rock me. Questo è il momento perfetto per il risveglio, per prendere ciò che è già stato fatto e farlo meglio. Noi siamo come padre e madre, insegniamo a camminare a questo piccolo stivale senza inciampare. Siamo il pane, i sali, il bene e il male, l'erba voglio, l'unica risorsa come quando finirà il petrolio. Mettiamo in moto il nostro mondo fatto d'odio e la musica gira intorno come Ivano sopra il linoleo. Non tengo testa a due politici, spengo la tele perché ho già acceso il giradischi e riposto la fede. La forza d'animo spinge la mia compagna. Pagine scrivo e riscrivo pagine, cripto la mia immagine. Fanculo il rap positivo, sai qualcosa dillo. Non recitare, fare divo come Servillo. Non aspettare chi è primo, corri con le tue gambe. Fottitene dei crampi, corri come in un Grand Prix. Fin da piccolo ho imparato a pensare con la mia testa. Non da grande farò il poliziotto, l'avvocato. So una regola uguale dal nord al sud. Un fallito resta tale anche col soldi o col sud. Rock. È il momento di svegliarvi dal letargo, pueblo. Mi parlano del vero anche se non lo vedo. Qui non si crede nei miracoli, sveglia. Liberatevi da quei tentacoli, sveglia. Where's the love? Scrivo questo pezzo con il cuore in mano, ma quello che non ho mai detto. Scrivo questo pezzo con il cuore in mano, ma quello che non ho mai detto mi è rimasto dentro al petto. Ho mosso mille passi in altrettante direzioni, ma d'amore ne ho parlato troppo poco spesso. Persone che direste più mature sono rinchiuse in ridicole armature. Girano per strada con le facce più scure, non hanno più coscienza né mezze misure. Io l'amore l'ho imparato con le cuffie calate, nel silenzio di serate passate aspettando nuove date. Le canzoni voi le avete imparate con la testa in un mondo da cui scappate. Poche cazzate, L'amore va, l'amore torna, l'amore stanca, l'amore prende, dopo molla, l'amore canta, l'amore sa che è tutto suo, per questo ogni giorno lo vivo come fosse l'ultimo tuo. The love, the love. Parliamo d'amore, l'amore dove? Parliamo d'amore, sì, ma l'amore dove? Parliamo d'amore, l'amore dove? Parliamo d'amore, ma dove? E io scrivo questo pezzo perché continuo a confessare le cose in cui becco, mettendo il privato a tempo. Chi siete voi per dirmi che è sbagliato il concetto? Se fate lo stesso con qualsiasi social network, piedi per terra con la colla, muovo la folla perché l'amore blocca. L'odio che sosta sulla sottile linea rossa, la vita due facce, lo so, face off, chiama la John Travolta, il confine si frantuma. Chi è Gammon, chi è Gianluca? Se una fase segue l'altra come quelle della luna, tra me e me frattura, se una parte acclama la mia venuta, è un Giuda che vuole la mia caduta. La fronte si corruga se pensa che business fa la fortuna, e la sua logica fottuta spesso paga chi non merita la sua valuta. Follia pura, il mio credito quadruplica ogni rima chiusa in battuta. Parliamo d'amore, sì, ma l'amore dov'è? Dai, parliamo d'amore, sì, l'amore dov'è? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you, don't underestimate the things that I will do. There's a a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it. But I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Tutti questi a guardare il documentario sul calcio storico. Ah sì? Dio buono. Florence Fight Club si chiama. Ah, ma si trova già su YouTube intero. Intero. Intero. Fantastico. Perché io, cioè, avevo visto che doveva uscire, però non sapevo poi se col time code in alto a sinistra, ma insomma, okay. si può vedere. Vabbè, tutto, buono, tutto. Dai, oh. Perfetto. Senti, un po' di uscite italiane da segnalare, a giudicare dalla tua scaletta. Sì, no? Che in realtà non è che so proprio freschissime, non perché tutte sono è già qualche settimana è uscito. Comunque è musica che non si tocca. Uh-huh. Ed è il nuovo, cioè non è un EP perché alla fine ci sono tipo 8 pezzi di Bassi Maestro con Sciocca. Yes. È uscito anche un video, no? Un paio di video. Esatto. E dentro c'è chiaramente, oltre a Bassi, in tutti i pezzi c'è Gammon, Mike Geronimo e c'è anche un pezzo con Mauri B. Quindi Mauri B, quello lì. Incredibile, pensavo si fosse ritirato definitivamente. No. È tornato. Infatti, che già all'epoca si chiamava Torno, cioè l'ultimo EP che fece si chiamava Torno sulla scena, l'EP. Altre segnalazioni, cose da ricordare? Lo scazzo no, tipo parte... tra l'Hyperdub e Fact? Non c'è stato uno scazzo. Non è da te. Che ma non c'è stato uno scazzo. No, io ho visto subito perché Code 9 ha scritto. Pensavo volessi fare la puntata monografica su questo. Invece. No, ma perché non c'è stato uno scazzo? Alla fine è fatto, ha fatto il pesce d'aprile. Okay. Però cioè, Cod9 cioè, gli ha scritto: no, guarda, cioè, tranquillo, ho riso anch'io. Cioè. Però che cioè, Burial esce su Hyperdub, è certo. Quello è vabbè, certo. Quello sì. Certo. Okay. Ma ti dico, io proprio fuori da ogni. Cioè, da ogni data, cioè, sono arrivato su Fact la mattina. Cioè, chiaramente non mi ricordavo che era il primo d'aprile. E leggo, cioè, pezzo nuovo di Burial. Ho detto, il primo di aprile, il pesce d'aprile più bello di quest'anno, sì, secondo sì, me sì. Era quello di Google. Se andavi a digitare Helvetica cercando il carattere, ti comprivi tutta la pagina in comics cartoon. Era una cosa sì. Fantastica. A parte questo ci abbiamo da ricordarvi un paio di date. Allora, il Biga mette i dischi mercoledì, quindi dopodomani, al Logic Club che si trova in Via De Macci, in compagnia di Ennio Colaci e che è il 50% di Mini Mono. Ok. Quindi si parla di funk, disco, robe così. Bomba. Suppongo. Giovedì io sono a girare i dischi al Cargo invece con GGD. Vale a dire il primo producer storico dei Sud Sound System. Mm-hmm. E sempre con lui sabato al Nevroz di Pisa. Poi che altro c'è da ricordare? Basta. Ricordate qualcosa per venerdì? Guarda, no? Niente. La settimana prossima a quest'ora sono a Londra, quindi non mi voglio ricordare di niente. La settimana prossima tu saresti come Schoolboy con Blackheart poi a suonare. Ma, sì, te lo ricordo caso fine mai... settimana. Fine okay, settimana. Ok. Sì, se torno con se le banane. Torni vivo, ecco. Se torno con le banane. Sono le 22 passate da 15 minuti. Vi lasciamo in compagnia di Bubu per la chiusura di questa trasmissione. Appuntamento a domani pomeriggio su ragnarpaisa.blogspot.com. Diffondete il verbo. Alla settimana prossima. Alla settimana prossima. We'll be right back.